Una donna bellissima, una vita bellissima. Sono timida, dice Sofia Loren, ma col pubblico parlerei per ore. E al pubblico ha regalato mille ricordi. A partire da quelli dell'uomo che l'ha resa grande attrice, Vittorio De Sica, e poi Totò, che lei conobbe quando era ragazzina. Mi ha visto e ha detto, tu muori fama. Proprio non è che muori fama, però... Cosa mangiasse. Dal nulla una grande stella che ha brillato per tutto il mondo e ha lavorato coi più grandi. Io che vengo da Pozzuoli, che non ho fatto né la scuola drammatica, non ho fatto scuola di recitazione, non ho fatto niente. Io potevo dire di no a Charlie Chaplin, c'è problema. Qualche momento di commozione ricordando il marito Carlo Ponti e il suo partner perfetto Marcello Mastroianni. Cominciamo a lavorare insieme e da allora non ci siamo più lasciati fino a ieri, diciamo. Ma quanti schiaffi si sono dati lei e Marcello? Erano veri? I miei schiaffi sono sempre veri, sempre. In cinema e fuori del cinema. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.